Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Io sono Marco Togni, sono un volontario AISM e sono stato quest'anno il Forrest Gump della sclerosi multipla. Marco ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per parlare di sclerosi multipla, una malattia che colpisce oltre 122.000 persone nel nostro paese. In ogni città in cui è stato, Marco ha portato e fatto firmare la Carta dei diritti del malato. Lo hanno soprannominato Forrest Gump. E nel suo viaggio, quello che ha portato a casa è l'immagine di un paese dove l'apertura verso l'altro resta una carta dominante. Tutto nasceva dall'idea di voler attraversare l'Italia a piedi, cercando di rispondere ad una domanda. Si può attraversare tutta l'Italia a piedi, partendo in un punto, arrivando nello stesso punto e toccando tutte e 18 le regioni peninsulari? Ora posso rispondere sì. Posso rispondere così. E sognavo di fare questo viaggio per una causa importante. E sono capitato subito sul sito di AISM e sono riuscito a capire un pochino quella che è la sclerosi multipla, tutta una serie di sfaccettature. Ho scoperto che è una patologia che colpisce i giovani e da lì, come ho letto quella frase, ho capito, cioè che viene diagnosticata principalmente tra i 20 e i 40 anni, ho capito che volevo davvero fare questo viaggio. La storia del viaggio di Marco racconta dunque un paese, il nostro, accogliente, fatto di abbracci, sorrisi e rinnovata consapevolezza. Il viaggio di Marco, totalmente fuori dai riflettori, ha aperto così tante possibilità. Io praticamente dal 17 marzo ogni giorno mi alzavo la mattina, pestavo giù chilometri, come mi piaceva dire a me, circa 20, 25, 40 chilometri come picco massimo. In realtà il picco massimo l'ho raggiunto proprio il penultimo giorno, quando ho fatto più di 42 chilometri, e arrivavo solitamente nel pomeriggio. Doccia veloce, poi andavo, facevo una serie di incontri nei comuni per portare quello che è un documento per noi fondamentale, che è la Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla, presentarla soprattutto nei piccoli comuni dove magari la sclerosi multipla è molto molto poco conosciuta. Ma quindi tu, quando arrivavi nel piccolo comune, cioè c'era la fanfara, cioè fammi immaginare com'era. È capitato, in alcuni paesi del sud soprattutto è capitato veramente una festa come se arrivasse chissà chi. Infatti è capitato di avere delle accoglienze veramente clamorose. Mi è capitato un paese che ha praticamente chiuso la piazza principale per dedicarmi l'arrivo e poi una cena in paese, quindi è stato bellissimo, è stato un viaggio da quel punto di vista, bello. Sul cammino Marco ha incontrato anche diversi ragazzi colpiti dalla sclerosi, giovani a cui spesso a 20 anni è stata diagnosticata questa malattia, come Emanuela, una donna forte e vivace a cui 10 anni fa, a 26 anni, hanno diagnosticato la sclerosi multipla. E io sono Emanuela Dalle Molle e ho 36 anni e ormai 10 anni fa ho avuto la diagnosi di SM e sono mamma di 3 bambini. Allora, la diagnosi mi è stata comunicata, diciamo, io sostanzialmente era un mese in cui non stavo bene, poi insomma dopo fare varie visite cominciava a entrare un po' lo spauracchio che potesse essere qualcosa di un po' più serio. E quindi mi sono recata all'istituto, posso dire, Vesta di Milano e lì ho avuto la diagnosi. Diciamo che da una parte è stata una liberazione, perché a quel punto era quello, cioè aveva un nome, tutte le sensazioni strane che avevo, perché a volte non è facile sempre, appunto nell'immaginario il malato di sclerosi multipla è una persona in carrozzina, poi in realtà davvero ha milioni di facce, non c'è un malato uguale all'altro, tutti abbiamo esordi diversi, colpisce zone diverse del corpo, quindi io un po' brancolavo nel buio, no, fra virgolette, e a quel punto aveva un nome. Ovvio che poi ha un nome, ma ha anche un retaggio di paure, timori, e quindi sicuramente è stato un impatto non facile, anche perché insomma neanche 26 anni ti chiedi classiche domande: perché a me, perché adesso, non ho mai fumato, non ho mai fatto uso di droghe pesanti, insomma ho sempre condotto una vita insomma piuttosto regolare, e anche un po' non invidia, però guardavo gli altri anche con occhi diversi, no? Quindi c'è questa prima fase. Io devo dire sono stata fortunata, insomma in quel momento ho continuato a lavorare, ho proseguito con la mia vita, non ha inciso per quanto mi riguarda sull'ambiente lavorativo, l'aveva saputo il mio capo, perché ovviamente in quel momento avevo fatto un po' di assenze, poi c'era appunto stata la fase in cui dovevo approfondire ulteriormente, anzi devo dire che è stato abbastanza accogliente in quel momento. Non l'avevo comunicato a tutti tutti i collaboratori, diciamo, i colleghi, ecco, e perché non volevo che si creasse quell'aura di pietismo che proprio non mi piace tuttora. E ho proseguito appunto la mia vita, insomma, ovviamente poi ci siamo sposati, in quel momento ancora non era mio marito, però c'è stato quella da dire, vabbè, senti, guarda, la vita è breve. Vediamo, che facciamo? Sì, ci sposiamo. Anzi, all'inizio ho avuto un po' di rifiuto io nel dire, vabbè, dai, sei sicuro, non so cosa sarà della mia vita. Invece poi, insomma, siamo partiti, ci siamo sposati. Thank you, India. Thank you, terror. Thank you, excellent. Solo qualche anno prima una storia simile avrebbe avuto un decorso diverso. Franco Milesi, che è presidente dell'Associazione Sclerosi Multipla Milanese, ne è il diretto testimone. Io dico una cosa sola, molto semplice, che mia mamma è mancata senza avere una diagnosi di sclerosi multipla. Oggi la diagnosi di sclerosi multipla, se solo c'è il sospetto, si fa con una risonanza magnetica e viene assolutamente certa la diagnosi. Prendere la malattia all'inizio significa poterla curare, fermare e quindi avere delle ottime possibilità di fare una vita normale. La storia di Franco è così lontana da quella di Manuela da fare impressione. Le cose dunque sono migliorate in fretta, grazie alla ricerca. Ad esempio, Manuela ha potuto scegliere liberamente se avere o meno dei figli. E queste non sono sfumature, ma vere e proprie affermazioni di vita. Abbiamo parlato con il neurologo sulla questione figli. E il mio neurologo mi disse, ma no, puoi farli, anzi, fatene pure tanti. E così abbiamo seguito il consiglio e devo dire, ho avuto 3 gravidanze splendide, 3 bambini, adesso basta. Non per la malattia, ma per ovviamente problemi di gestione. E fai anche la volontaria, tu adesso stai ricominciando un po' a fare la volontaria. Esatto, sto ricominciando, diciamo, il mio primo approccio con AISM è stato più che per fare ovviamente volontariato, ma perché ormai era una cosa che mi riguardava, quindi all'inizio avevo tutti che mi spingevano ad andare dallo psicologo, insomma tutte le cose, invece io avevo bisogno io di avere il mio tempo per metabolizzare. Una volta che poi ho avuto i miei tempi per metabolizzare, mi sono avvicinata all'AISM, anche perché avevo voglia comunque di conoscere altre persone con SM della mia età. E così, insomma, ho iniziato un po' a partecipare al gruppo giovani, insomma, quando ero più giovane. Esatto, vabbè. E poi alle varie iniziative, poi fra appunto gravidanze, allattamenti, insomma, piano piano sto rientrando un po' nel mondo, insomma, di AISM, ecco. E che cosa ti ha dato stare insieme agli altri, appunto, quando hai incontrato persone della tua età che avevano una diagnosi di sclerosi multipla? Che cos'è che ti ha dato, anche per chi magari a casa e se la sta vivendo da solo, no? E ti senti capito più di quanto possa fare comunque un familiare. E io mi ricordo, per esempio, quando ho avuto la diagnosi, forse la parte più difficile è stata probabilmente dirlo ai miei genitori, per esempio, no? Perché comunque sono di una generazione diversa e mentre una persona che comunque la vive come te comprende anche, a parte appunto i vari sintomi, anche, non so, tantissimi aspetti, devo dire, quindi forse ti senti un po' più compreso e capito. Non è sempre facile trovare persone con sclerosi multipla che magari ne parlino, ecco. Perché c'è ancora un po' un tabù rispetto al parlare di questa malattia? Sì, secondo me sì, non in tutti i contesti, probabilmente non a Milano, però secondo me in alcuni contesti sicuramente sì, ma perché poi, ripeto, temi di essere discriminato, temi, nel mio caso per esempio io lo dico se capita, ma non sto lì a dire sì, perché io ho la sclerosi multipla. A parte che devo dire io sono anche strafortunata, non lo diresti penso neanche lontano un miglio, insomma non ho segni evidenti della malattia, conduco una vita normale, faccio la mia terapia giornaliera, non ho effetti collaterali, cioè io sono probabilmente il caso migliore che può esserci. Non per tutti è così, non tutti la vivono allo stesso modo, però secondo me si dovrebbe in qualche modo fare più rete, appunto oltre al lavoro di AISM, su tantissimi aspetti burocratici e amministrativi proprio fra malati, come scambio di opinioni, di vissuto. Posso chiederti la terapia in che cosa consiste, se non sì, hai voglia? Sì, sì. Allora, io dall'esordio della malattia faccio un'iniezione di Copaxone, si chiama questo farmaco, è un'iniezione piccolina e la, sì, tutti i giorni la faccio da sola, perché è proprio veramente facilissima, cioè la fai con un autoiniettore, carichi, molli il colpo e è andata, ecco. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. Grazie ai progressi dei trattamenti, le persone con sclerosi multipla possono mantenere una buona qualità di vita. Tutte cose che stanno avvenendo grazie al lavoro delle associazioni che spesso vanno a supporto della ricerca scientifica. Filippo Martinelli Boneschi è un neurologo, lavora al Policlinico nel centro sclerosi multipla. Ci sono fortunatamente delle notizie molto positive riguardo alla malattia, perché adesso abbiamo 15 farmaci a disposizione per curare la malattia e quindi la comunicazione della diagnosi nel corso degli anni è molto cambiata, un momento molto delicato nel quale spesso ci appoggiamo anche all'aiuto degli psicologi. Il nostro obiettivo, l'asticella di noi neurologi, si è molto alzata, nel senso che mentre un tempo si davano dei farmaci per ridurre questi episodi che si chiamano ricadute, adesso il nostro obiettivo è quello di far scomparire la malattia, cioè di fare in modo che la malattia non esista più, che l'attività di malattia non esista più. E questa è una cosa molto importante, perché quando si comunica una diagnosi, si comunica anche una speranza di trovare un farmaco. In questo senso la ricerca è probabilmente anche l'associazione stanno dando un grosso aiuto. L'associazione, come dico sempre, è fondamentale, perché permette di evitare, per quanto ci riesce, la fuga di cervelli all'estero, perché la ricerca scientifica in Italia sta soffrendo tantissimo, riceve pochissimi finanziamenti e quindi il ruolo dell'associazione, della fondazione, è fondamentale. Io stesso ho iniziato a fare ricerca grazie proprio a una borsa dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. In ambito di ricerca si sono fatti grossi passi in avanti, io mi sono occupato soprattutto di genetica a San Raffaele, dove lavoravo prima. È chiara la mappa, diciamo, genetica. La sclerosi multipla non è una malattia genetica, però c'è una predisposizione, quindi ci sono delle persone che hanno un maggior rischio, e su questo aggiungo anche, molto importante, lavorare sui fattori di rischio ambientali. Ci sono delle cose che fanno male sia a chi ha la malattia sia a chi rischia di avere la malattia e non ce l'ha ancora. Sono molto semplici da ricordare: sono il fumo di sigaretta, assolutamente da evitare, l'obesità soprattutto in età puberale, i bassi livelli di vitamina D, quindi è molto importante controllare i propri livelli di vitamina D, soprattutto se si ha una familiarità possibile. La malattia è molto lunga, perché la malattia è una malattia che prevalentemente colpisce persone giovani tra i 25 e i 35 anni, soprattutto donne, non ha una grossa influenza sull'aspettativa di vita, quindi le persone attraversano un grande spazio della loro vita con questa malattia. I farmaci a disposizione sono efficaci, sono anche farmaci comunque costosi, e questo è un messaggio importante che l'AISMA sta portando avanti come battaglia. Non si può risparmiare su questi farmaci. Tra l'altro, a livello europeo c'è stato un interessante meeting che ha chiesto l'accesso ad uguali cure a tutti i paesi dell'Unione Europea, perché questo non è possibile. Ci sono alcuni paesi dell'Unione Europea nei quali non è possibile accedere a farmaci a più alto costo, purtroppo. Parliamo di una malattia che sta aumentando come frequenza, e una malattia della quale conosciamo maggiormente tutta una serie di aspetti, ma che necessariamente ha bisogno anche di un aiuto. Wanna give you my heart, wanna tell you my story. Storie che spesso si incrociano alle competenze, come quella di Simona Pappacena, alla cui madre hanno diagnosticato la sclerosi, una tappa che ha cambiato la scelta di questa ragazza, che da allora ha deciso di mettersi in campo, in prima linea. Io sono Simona Pappacena e sono una volontaria di servizio civile qui in AISM e in realtà conosco l'associazione ormai da più di 15 anni perché nel 2005 hanno diagnosticato la patologia mia mamma. Quindi da allora mi sono attivata per non cadere un po' in quella trappola che spesso una patologia come questa può creare, che è il senso di impotenza. Quindi mi sono detta: ma che cosa si può fare? E in realtà si può fare tanto. E da un lato ho strutturato il mio percorso di studi diventando psicologa e interessandomi di neuropsicologia, e dall'altro poi ho portato avanti un po' questa mia spinta al sociale e cercando di mettere in campo le mie risorse anche per dare una mano agli altri. Attualmente come percorso di formazione, perché sto studiando per diventare psicoterapeuta. Che tipo di lavoro fa la neuropsicologia in questo ambito? Allora, la neuropsicologia si occupa di valutare un po' come la malattia può portare delle conseguenze sulla cognizione, quindi su memoria, attenzione, funzioni esecutive, e come questo si possa quantificare come disturbo all'interno della qualità di vita di una persona. Quindi c'è una fase di valutazione e del danno, tra virgolette, e se possibile si presentano anche un po' dei percorsi di riabilitazione. Una riabilitazione classica, usate degli strumenti, dei macchinari? Allora, dipende molto dalla persona e dipende anche dalla fascia d'età, dal grado di compromissione. In generale si possono utilizzare dei software che sono appunto dei, non so, degli strumenti computerizzati, per cui ci sono delle funzioni mirate, per esempio sulla memoria. Allora ci sono dei programmi che portano avanti tutto quell'iter di elaborazione. Piuttosto in situazioni un po' più compromesse si lavora su una stimolazione più globale, quindi non vado a lavorare su una singola funzione, ma in quel caso cerco di far sì che la persona sia maggiormente partecipe della vita sociale e quindi non vada a rinchiudersi, no? E a isolarsi maggiormente. Anche, non so, indicare attività come il tai chi o piuttosto yoga o qualsiasi cosa che possa attivare e stimolare la persona. Cose sono ancora collegate al passato. A tenere banco è ad esempio il pregiudizio nei luoghi di lavoro. Aide Longo è un avvocato che offre assistenza e consulenza legata ai soci dell'associazione Sclerosi Multipla. C'è ancora tantissimo pregiudizio per quanto riguarda la sclerosi multipla in generale e la possibilità delle persone che hanno la sclerosi multipla di effettivamente essere capaci di condurre una vita, tra virgolette, normale. E quindi sul lavoro questo si sente molto, perché è molto difficile innanzitutto per queste persone trovare lavoro, e nel momento in cui l'hanno trovato è molto difficile mantenerlo. Quindi diciamo è una mancata informazione. Cioè, quello che il mondo del lavoro conosce è qualcosa di molto vecchio rispetto a quello che sta succedendo invece nell'ambito della cura. Esattamente sì, è una mancanza di informazione e una mancanza anche di conoscenza più in generale sulla malattia, molto diversa da quello che la gente normalmente si immagina. La gente pensa che la sclerosi multipla sia una malattia che per esempio colpisce i muscoli, ma invece non è così, perché è una malattia che agisce sul sistema nervoso. Quindi ci sono tanti fattori che giocano dal punto di vista dell'informazione, della conoscenza. Curare significa anche intervenire per tempo e con fondi appropriati. Franco Milesi, presidente dell'Associazione Sclerosi Multipla Milanese. Se si fanno degli interventi in cui la persona con SM può essere agevolata anche nella vita di tutti i giorni, può essere più autosufficiente, è automatico che gravi di meno sui servizi sociali. Il risparmio è insito nelle azioni che facciamo, nel senso che se la persona è più autonoma è ovvio che grava di meno su quello che possono essere i servizi sociali del comune. Sono costi talmente elevati che se uno risparmia lo 0,1% o l'1% o il 2%, è difficile stabilirlo perché bisognerebbe fare uno studio preciso, però sono costi talmente elevati che se c'è un risparmio vale sicuramente la pena di fare un piccolo investimento. Cosa chiedono le persone malate di sclerosi multipla? Lo abbiamo chiesto a Emanuele Pagin, che si occupa dello sportello d'ascolto. e quello che chiedono fondamentalmente è avere accesso alle cure, possibilità di lavorare e un sostegno nel corso della malattia. Quando il nostro sistema di welfare, un po' inteso nell'accezione più allargata, no? Quindi sia per quanto riguarda la parte, come dire, sanitaria, sociosanitaria, ma anche sociale, mette una persona nella sua unicità, nelle condizioni di avere accesso al lavoro, al mantenimento del posto di lavoro, banalmente, come dire, dei servizi accessibili di trasporto, delle facilitazioni sull'orario del lavoro per avere una compatibilità con le proprie cure, magari maggiori periodi di riposo, permette alla persona di mantenere un ruolo attivo nella propria vita, nella società, di produrre un reddito, di avere un ruolo appunto sociale, che è uno dei ruoli del lavoro, oltre a quello del sostentamento economico, e di ritardare o eliminare del tutto tutti quegli interventi più di natura previdenziale o assistenziale. Esiste un mondo in movimento che sta dunque tentando di abbattere i pregiudizi attorno al tema della sclerosi, un mondo che letteralmente Marco Togni ha attraversato e ha avuto modo di incontrare. Devo dire che molto spesso delle persone hanno voluto fare delle tappe con me, è capitato anche in un caso che più persone con sclerosi multipla volessero fare dei pezzi di tappa con me. Una ragazza ha fatto due intere tappe con me, lei è una ragazza diagnosticata da più di 10 anni, 5 terapie cambiate, insomma anche un percorso complicato da un punto di vista di terapia, ha molti sintomi nascosti lei. Però fortunatamente diciamo che a livello di mobilità è un fenomeno, ha fatto il cammino di Santiago, arrampica, fa di tutto, poi ha tutta una serie anche lei ovviamente di sintomi e di effetti, però devo dire che è una ragazza straordinaria. Diario termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi, potete scriverci a diario@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.